Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Scontri con gli hooligans inglesi che invocano l'ISIS a Marsiglia e a Parigi. Cumuli di rifiuti per lo sciopero dei netturbini. Si aprono questa sera gli europei di calcio in campo Francia e Romania. Oggi i funerali della ragazza uccisa e bruciata dall'ex fidanzato a Roma, e a Trieste l'ex marito confessa l'omicidio di una donna scomparsa da giorni. Sulla crisi, i giovani imprenditori di Confindustria dicono la guerra è finita, appoggio al referendum per la riforma costituzionale. Dal Consiglio dei Ministri l'esame preliminare delle nuove regole sui voucher, tracciabilità dei buoni lavoro, regole più morbide per il settore agricolo. Berlusconi sarà operato al cuore entro la prossima settimana. Da Forza Italia si smentisce l'avvio di una guerra per la successione. Auto trascinate dall'acqua, strade allagate, un'ora di pioggia violentissima mette in ginocchio Grosseto per una sera, in corso la valutazione dei danni. A Roma scioperano gli auto ferrotramvieri aderenti all'UGL e lo fanno lunedì sera dalle 20:30, giusto mezz'ora prima dell'inizio di Italia-Belgio. I compiti per l'estate non si fanno per ordine del sindaco. A Mamoiada, nel Nuorese, fa discutere la decisione del primo cittadino. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, c'è il nostro canale Telegram per le anticipazioni, telegram.me/effettogiorno, se volete scriverci qualcosa di un po' più lungo c'è, o anche segnalarci notizie dal territorio, effettogiorno@radio24.it. Dunque, in apertura la giornata nella quale hanno inizio gli europei di calcio, che partono però con in primo piano temi di cronaca. Avevano messo in conto i timori per un attacco terroristico e gli scioperi contro la riforma del lavoro. Invece ad alzare la tensione su questo primo giorno dei campionati europei di calcio ci hanno pensato gli hooligans inglesi, ubriachi secondo la stessa stampa britannica, che nella notte hanno provocato tafferugli a Marsiglia, dove domani è atteso l'incontro Inghilterra-Russia, temutissimo per l'ordine pubblico. Stasera l'allerta invece è a Parigi, alle 21 l'incontro tra Francia e Romania. Misure di sicurezza straordinarie per lo stadio di Francia, davanti al quale nessuno lo può dimenticare, il 13 novembre si fecero esplodere 3 terroristi islamici. Ma a preoccupare in queste ore Hollande, molto più banalmente, è l'immagine che la Francia sta dando di sé, con cumuli di rifiuti in pieno centro che non vengono ritirati a causa dello sciopero dei netturbini, ultima categoria ad aver deciso di incrociare le braccia contro la riforma del lavoro voluta dal governo. Le ferrovie vanno per il 10° giorno di sciopero, i piloti di Air France da domani sono in agitazione. Dalle raffinerie alle discariche, la Francia, al fischio d'inizio, rischia la paralisi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo però anche sul lato sportivo con il nostro inviato in Francia, Dario Ricci. Eccoci qua, Dario, vai! Sì, un saluto da Montpellier, da Casazzurri, il ritiro degli azzurri appunto che puntano dritto verso la sfida di lunedì con il Belgio a Lione, che ha già il sapore di una finale, l'avversario più difficile del nostro girone, che comprende anche Svezia e Irlanda. Oggi parola all'attacco dalle polveri bagnate, mi viene da dire, perché Eder, Insigne e Immobile sono le punte che in qualche modo completano il reparto insieme a Graziano Pellè. Finora vengono da una stagione, soprattutto il torinista e l'interista, opaca nella seconda parte in particolare, e a loro si chiede non solo la buona volontà, non solo il movimento, ma soprattutto i gol che possano aiutare questa nazionale operaia. La buona volontà e la determinazione c'è, a sentire le parole di tutte e tre, speriamo che ci siano anche i risultati. Riflettori puntati però oggi, come è giusto che sia, su Saint-Denis, su Parigi. Oltre a tutto il contorno che vi stiamo raccontando, c'è anche una partita di calcio che è Francia-Romania, l'esordio dei Blé, che sono tra i grandi favoriti di questo europeo, se non altro perché padroni di casa e anche per la squadra che possono mettere in campo agli ordini del CT Deschamps. Due nomi su tutti: Griezmann, la punta dell'Atletico Madrid, e Paul Pogba, il trascinatore della Juventus. Dall'altra parte una Romania che comunque è sempre un brutto cliente, calcio dell'Est, che può sempre regalare qualche sorpresa. Speriamo soprattutto, Simone, vada a chiudere, che stasera si possa commentare solo una partita di calcio. Speriamolo davvero, grazie intanto al nostro inviato Dario Ricci, inviato a Montpellier, e in qualche modo di calcio torneremo, oltre a risentire Dario Ricci, ovviamente tutti convocati, torneremo a parlare più avanti nel corso della trasmissione. Avremo il segretario nazionale dell'UGL Autoferrotranvieri, perché come già vi dicevamo nei titoli, ebbene, l'UGL ha deciso di proclamare uno sciopero a Roma tra gli autoferrotranvieri, esattamente negli orari nei quali si svolge la partita dell'Italia. Oggi i funerali della ragazza uccisa dall'ex fidanzato a Roma. E l'audio che sentiamo arriva proprio da là. Le esequie sono state seguite dal nostro Andrea Viali. Andrea, eccoci. Sì, Simone, tutto il quartiere Spallette questa mattina si è stretto attorno alla famiglia di questa ragazza, Sara Di Pietrantonio, e anche molti amici di questa universitaria 22enne hanno affollato la chiesa di Santa Maria Madre della Divina Grazia, dove si sono svolti funerali. Un applauso lo abbiamo sentito, ha salutato l'uscita della bara bianca dalla parrocchia, la bara bianca della ragazza dalla parrocchia, che si trova a poche centinaia di metri da quella che era la sua abitazione. Siamo nell'estrema periferia della capitale, la zona è quella di Ponte Galeria, e non lontano da qui Sara, a fine maggio, il 29 maggio, è stata uccisa dal suo ex fidanzato, il vigilante Vincenzo Paduano, che non aveva accettato la fine del loro rapporto e più volte l'aveva anche minacciata. Il ragazzo quella sera l'ha seguita e dopo un diverbio in piena notte l'ha prima strangolata e poi ha dato fuoco al suo corpo. Interrogato subito dopo dalla polizia ha ammesso tutto e ora si trova in carcere. Combatterò perché ci sia giustizia, ha detto la madre di Sara durante il funerale e in quello che comunque oggi è soprattutto il giorno del ricordo e del dolore per la morte di questa ragazza, una ragazza di 22 anni vittima di un femminicidio che ha scosso Roma e non soltanto Roma, Simone. E grazie ad Andrea Viali per la cronaca da Roma. Altri casi però emergono in queste ore. Uccisa nel proprio appartamento, caricata in macchina e poi sepolta in una discarica di materiale edile. È la fine di Slavica Kostic, la donna serba di 37 anni, scomparsa lo scorso 26 aprile da Trieste, dove lavorava, e il cui corpo è stato trovato ieri in territorio sloveno. Per l'omicidio ha confessato l'ex marito della donna, 61 anni, era venuto apposta nel capoluogo giuliano dalla Serbia. Tra i moventi spunta anche una contesa sull'appartamento di Trieste, acquistato dall'uomo e intestato alla donna, ma il delitto ricalca in pieno gli altri episodi simili di femminicidio, 59, solo dall'inizio dell'anno. Tragedia sfiorata a Milano, invece, dove un uomo di 34 anni si è presentato sul luogo di lavoro della moglie munito di un vero e proprio kit per l'aggressione. Due trapani, un martello e due flaconi di acido muriatico. La donna, che da un mese vive da un'amica con i figli per sfuggire alle violenze, lo ha convinto a tornare a casa in metropolitana, riuscendo così a rifugiarsi dagli agenti della Polmetro. Non si esclude alcuna causa, femminicidio compreso, infine, per la morte della 52enne di Bellona, nel Casertano, scomparsa due giorni fa dall'abitazione in cui viveva con il marito e il cui cadavere carbonizzato è stato rinvenuto nei pressi del cimitero. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Notizie di questa mattina in arrivo dall'Istat. Al 31 dicembre 2015 risiedono in Italia 60.665.000 persone, di cui più di 5 milioni di stranieri. Ma il punto e la notizia è che il numero dei residenti ha registrato una diminuzione consistente per la prima volta negli ultimi 90 anni. Il saldo complessivo è negativo per 130.000 unità. Il calo riguarda esclusivamente la popolazione di cittadinanza italiana e quindi ci sono anche segnali di emigrazione. 141.000 residenti in meno, mentre la popolazione straniera aumenta di 11.000. E veniamo all'Assemblea dei Giovani Imprenditori a Santa Margherita Ligure. Muri caduti per aziende senza confini a partire dal muro della crisi, come spiega Marco Gai, presidente dei giovani industriali al 46esimo convegno di Santa Margherita Ligure. Gli industriali giovani hanno scelto come immagine simbolo il muro di Berlino perché ci sono i passi avanti ancora da fare nelle riforme. Via il sistema pensionistico retributivo. Via la pubblica amministrazione che secreta gli atti, via i vitalizi ai parlamentari, via una scuola che non si alterna con il lavoro ma con gli scioperi, via un fisco che tassa i dipendenti anche quando non si fanno profitti, via, speriamo, anche il rigore di Bruxelles. Diciamoci la verità, Solo qualche anno fa tutto questo ci sarebbe sembrato impossibile. Sul referendum costituzionale, l'occasione che non possiamo perdere, avverte il leader degli under 40 di Confindustria Marco Gai e sottolinea i prossimi 4 mesi non si possono trasformare in campagna elettorale infinita che tiene in ostaggio i provvedimenti per le imprese, il lavoro, i giovani. E sull'Europa Gai sbarra il passo alla Brexit. La Brexit non è una scelta qualsiasi, ma una scelta suicida, in primis per gli inglesi stessi. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore, Santa Margherita Ligure. Oggi il Consiglio dei Ministri ha esaminato le nuove regole sui voucher. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. È così un percorso molto graduale, quello scelto dal governo per una maggiore tracciabilità dei voucher. La scorsa settimana l'approvazione era stata infatti rinviata. Oggi Palazzo Chigi ha dato il via libera, ma in via preliminare alla stretta sull'utilizzo di questo tipo di buoni lavoro. Il testo, essendo un decreto legislativo, dovrà quindi passare per le commissioni parlamentari competenti e poi tornare sul tavolo del governo. Quanto ai contenuti, si prevede, secondo le prime indiscrezioni, che il committente, imprenditore o professionista, debba comunicare almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione nome, cognome o il codice fiscale del lavoratore che riceverà il buono lavoro, il luogo poi e durata della prestazione con un sms o un'email alla direzione territoriale del lavoro. Per gli imprenditori agricoli sarà possibile usare il voucher entro 7 giorni, questo per consentire una maggiore flessibilità in un settore legato strettamente alle condizioni meteo. E per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta. Siamo alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Si sbagliano di grosso, non ci sarà una guerra di successione, scrive Renato Brunetta. Dello stesso tenore le dichiarazioni della portavoce Deborah Bergamini. Non c'è nessuna riorganizzazione di Forza Italia. Oltre a essere vicini al presidente, siamo mobilitati per i ballottaggi. Lo aspetto presto, di nuovo protagonista, l'augurio da Milano di Stefano Parisi. Sono tanti i messaggi di solidarietà per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele da martedì. Entro la metà della prossima settimana sarà operato al cuore per sostituire la valvola aortica, ha detto ieri il suo medico Zangrillo, che ha svelato ha rischiato di morire. Forza Italia aveva parlato invece di semplici accertamenti per un malore avuto tra sabato e domenica, dopo la chiusura della campagna di Marchini e prima del voto ai seggi a Roma. Non avrebbero dovuto fargli proseguire la campagna in quelle condizioni? Con queste parole, secondo alcune ricostruzioni, i figli, Marina in primis, avrebbero accusato i collaboratori più stretti del padre. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quali sono le spiagge più belle? Provano a rispondere Lega Ambiente Touring Club. Non pretende di essere un censimento di tutte le aree balneari italiane, ne rappresenta piuttosto una selezione. È la guida blu di Legambiente, presentata ogni anno all'inizio dell'estate, che premia con le 5 vele i comuni che si distinguono per la qualità dell'ambiente e la gestione ecosostenibile del territorio. Con un salto di qualità balza sul podio al primo posto Domus de Maria, provincia di Cagliari, dal 12° dello scorso anno. Scalza così Castiglion della Pescaia, provincia di Grosseto, che ottiene comunque la medaglia di bronzo. Il Cilento arriva secondo grazie a Pollica, provincia di Salerno, sul podio anche lo scorso anno. Hanno ancora molta strada da fare invece i comuni che hanno preso soltanto 1 vela su 5, fra questi Taormina, Termoli e Viareggio. Dania Di Bitonto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Iniziamo, priva del traffico, il nostro giro per l'Italia. Andiamo in realtà non lontano da alcune di queste spiagge meravigliose raccontate dalle Cambiente Touring Club, ma per raccontare qualcos'altro, per raccontare quella che è stata una vera e propria alluvione per un'ora di pioggia a Grosseto, e siamo in linea con il sindaco Emilio Bonifazi. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, appunto, un'ora di pioggia, strade allagate, macchine trascinate via dall'acqua. Ci dà un quadro della situazione al momento? Sì, dunque sono piovuti in un'ora 80 mm, che sarebbe l'equivalente di 2 mesi di pioggia, maggio e giugno, con raffiche di vento fino a 110 km orari. Quindi naturalmente un evento eccezionale che, pur avendo l'allerta regolarmente comunicata, naturalmente si è concentrato tutto sulla città capoluogo, perché poi non si è esteso in altre parti della provincia di Grosseto. Quindi questo ha determinato disagi, sì, al patrimonio pubblico, ma soprattutto ai commercianti e agli imprenditori e agli artigiani. Immagino che sia presto per una valutazione dei danni, sindaco. Sì, ora siamo qui con il presidente della regione a parlare proprio di della dichiarazione di stato di emergenza, e stiamo facendo subito, porteremo avanti questo piano di censimento dei danni che sono stati, si sono avuti, anche perché molte persone, al di là dei negozi che erano aperti ieri sera, alcune attività hanno aperto questa mattina, hanno trovato purtroppo la brutta sorpresa. Sono state chiuse le scuole, sì. E sono, per Grosseto sono tanti plessi scolastici, anche per una questione di precauzione, quindi l'ultimo giorno di scuola naturalmente non si è tenuto, sì. E stiamo ora verificando tutte le strutture pubbliche, le scuole, per vedere naturalmente del comune, se quelle, sì, di competenza della provincia, per vedere naturalmente che condizioni sono. Un'ultima domanda, se ci sono eventuali danni, sì, o allagamenti o cose di questo genere. Sindaco, un'ultima domanda. Il livello di allerta che vi è arrivato dal sistema della protezione civile era adeguato a quello che si è verificato ieri, secondo lei, oppure no? Ma sì, il livello era livello arancione, quindi un livello alto. Chiaramente si è concentrato tutto sulla città, quindi naturalmente sono questi fenomeni che vanno nel cambiamento climatico, che purtroppo delle volte è difficile localizzare con precisione, cioè nel senso che noi avevamo su tutta la provincia l'allerta arancione, il fenomeno si è concentrato solamente su Grosseto, e chiaramente è difficile da prevedere questo. Allora, abbiamo messo poi tutti i meccanismi, siamo attivati su tutti i fronti, su tutti gli aspetti, tutto con il comitato ad hoc sulla protezione civile, coordinato dalla prefettura. Allora la ringrazio, sindaco, in bocca al lupo naturalmente, e buon lavoro per una giornata di oggi che sarà piuttosto intensa. Le auguro una buona giornata per quanto possibile. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, e poi torniamo sempre con il nostro giro per l'Italia. Andremo a sentire un altro sindaco, però di un piccolo paese, Mamoiada, siamo nel Nuorese, che ha varato addirittura un'ordinanza per dire ai ragazzini di non fare i compiti quelli per l'estate, perché si devono godere la vita durante l'estate. Chissà se un sindaco deve fare tutto questo. Ci occuperemo di Vicenza, dove c'è un problema di accoglienza di migranti e di profughi, e il prefetto con i sindaci, riunito con i sindaci nei giorni scorsi, ha parlato abbastanza chiaramente, ha detto: decidetevi voi a fare l'accoglienza diffusa, perché ci sono molti comuni che non vogliono accogliere, oppure ci penso io e ve li distribuisco io. E avremo in linea il prefetto. Ci occuperemo anche del sindacato dell'UGL, la vicenda alla quale vi abbiamo accennato poco fa. Intanto traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della giornata di apertura degli europei di calcio, con scontri con gli hooligans inglesi, a Parigi cumuli di rifiuti per lo sciopero dei netturbini. Abbiamo parlato dei dati dell'Istat sui residenti, del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, dei voucher lavoro. Il governo ha esaminato un primo provvedimento di regolamento e di controllo più puntuale. Abbiamo parlato delle condizioni di salute di Berlusconi, e come avete sentito anche dell'alluvione che c'è stata a Grosseto. Adesso ci spostiamo in un piccolo comune del Nuorese, Mamoiada. Siamo in linea con il sindaco Luciano Barone. Sindaco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, 2500 abitanti e un'ordinanza, addirittura un'ordinanza del sindaco per dire ai ragazzi: non fate i compiti per l'estate, ho capito bene? Sì, ha capito benissimo, però si tratta esattamente di fare dei compiti diversi, alternativi, che diano più, diciamo, nutrimento allo spirito e all'anima, cioè? Che alla didattica. Cioè fare passeggiate con degli scorci magari in lungomare, guardarsi l'alba, arricchirsi esattamente tutta quella parte emotiva che poi è anche utile per la didattica. Cioè compiti emotivi per i ragazzi di Mamoiada. Esatto. Però non ho capita molto bene. Ma i professori sono contenti di questa cosa oppure no? Allora, il corpo docente ovviamente storce un po' il naso, perché la interpreta come un'ingerenza da parte mia nel loro mandato prioritario. Però io per tutto il mio mandato, io sono in carica da un anno, non faccio altro che interfacciarmi direttamente, senza delega alcuna, a quei ragazzi che abitano il mio centro urbano. Perché me ne sento responsabile direttamente. Qui c'è un detto, che il sindaco è anche il babbo di tutti. tutto il paese. Di conseguenza ogni ragazzo mi appartiene dal punto di vista della responsabilità e me ne faccio carico, non mi sottraggo a questo. Ha deciso di farsi. Tra l'altro ha detto che verificherà alla fine dell'estate se hanno fatto i compiti o non hanno fatto i compiti. Assolutamente sì, verificherò io personalmente se... durante l'estate sono riusciti ad arricchirsi dal punto di vista emozionale. Se sono riusciti mi scusi, no, adesso sindaco, però come lo verifica se si sono arricchiti dal punto di vista emozionale? Abbia pazienza. Perdonerà lo scetticismo. Assolutamente certificato e motivato lo scetticismo. Però quando riesce a trovare il linguaggio comune con il quale poter appunto comunicare, si capisce se quel ragazzo ha vissuto, che so, anche un semplice momento di serenità, o ho avuto un'esperienza che l'ha segnato in un breve periodo. Ho capito, però magari se ha passeggiato sulla spiaggia e poi questa emozione non l'ha provata, che succede? Che fa? Lo multa? Assolutamente no, però lavoreremo, perché questa qui è un'ordinanza che comunque verrà reiterata. Ogni anno. Ultima domanda, dal punto di vista amministrativo, lei la può fare una cosa di questo genere? Perché io... Dal punto di vista amministrativo è ovvio che è una forzatura, perché comunque sia è un modo per comunque dare autorevolezza a quello che è una dichiarazione di intenti, non posso di fatto entrare dentro il merito didattico della scuola. Anche se c'è una cosa da dire, sì. Io con la scuola interagisco quotidianamente, perché tutte le problematiche che emergono anche dal punto di vista didattico me le scaricano a me, perché se c'è un problema di BES, di dislessia, di irrequietezza a livello di classe, io vengo contattato direttamente, che siano insegnanti o che siano genitori. Sì. Quindi in un certo modo devo comunque prenderne atto. Che le devo dire, sindaco? Facciamo una cosa, magari ci risentiamo a settembre e ci racconta un po' se ha verificato attentamente lo stato emozionale dei ragazzi che vanno a scuola a Mamoiada. Allora, la ringrazio. Grazie al sindaco di Mamoiada nel Nuorese per essere stato con noi, e adesso ci spostiamo e torniamo a spostarci e continueremo a farlo, perché è un evento internazionale importante e molto grande, che è quello che partirà dal 18 di giugno sul lago di Iseo, e sono queste passerelle, ve l'abbiamo raccontato, realizzate dal grande artista Cristo, che permettono di appunto camminare sulle acque. È un'opera che rimarrà aperta per un paio di settimane, un'opera che dovrebbe portare sul lago di Iseo, e siamo a cavallo tra le province di Bergamo e Brescia, 1 milione di persone. Abbiamo Damiano Galletti, che è segretario generale della CGIL di Brescia. Buongiorno Galletti, benvenuto. Buongiorno. L'avete fatti multare questi che organizzano le passerelle di Cristo? No, in effetti non siamo stati noi. L'ispettorato è andato a controllare e ha scoperto che dei sommozzatori che venivano dalla Francia non avevano regolare rapporto di lavoro nella partita IVA. Però al di là di questa vicenda, noi abbiamo fatto un accordo, perché l'evento è davvero importante per il territorio, con Confesercenti e Confcommercio, di far assumere i lavoratori nel periodo indicato con un rapporto di lavoro senza il voucher. Questo è un aspetto importante, che abbiamo fatto un accordo appunto con queste due. Sì, un contratto diciamo di breve periodo, però un contratto regolare, chiaramente, non a prestazione come i voucher, ma un vero e proprio contratto. Esatto. Da quel che ho capito, però voi avete anche un po' protestato, Galletti, per i turni di lavoro di chi deve fare i controlli. No, poi noi abbiamo chiesto un incontro per capire alla società che gestisce poi l'evento, per sapere i 600-700, dicono, lavoratori che dovranno stare sulla passerella, i 3 chilometri di passerella, per gestire il flusso che, come diceva, è un sarà flusso imponente, sicuramente certo, di grande impatto. Oggi parlavano addirittura di 1 milione di persone che nelle 2 settimane, e capire se questi lavoratori, siccome il ponte sarà aperto 24 ore su 24, dovrebbero fare turni di 6 ore ciascuno. Sì. E è chiaro che capire se questi lavoratori hanno la possibilità di un carico. Non è una roba pazzesca, un turno di 6 ore non è una roba pazzesca, no? No, ma assolutamente. Non stiamo dicendo che le 6 ore sono fuori, però le 6 ore stabilire, ad esempio, i riposi cosiddetti fisiologici, se è possibile fare. Cioè, noi vorremmo avere un incontro per capire come l'azienda, come la società ha deciso di fare la gestione di questi rapporti di lavoro, tenendo conto che mi ci risulta che siano tutti con i voucher, sì, a differenza di quello che abbiamo fatto l'accordo, cioè sì, con vabbè, però sono due settimane, Galletti, per un evento internazionale tutto sommato, sì, ci sì, si può stare, no? Stiamo solo chiedendo chiarimenti su questa questione del rapporto di lavoro e come vengono, sì, pagati questi lavoratori, la tonnistica. E poi voglio ricordare che per gestire un flusso così importante penso che un minimo di formazione a questi lavoratori bisognerà dargli, perché insisto, è su una passerella, sì, e qualche problema dal punto di vista della sicurezza si può incontrare. Si potrebbe so incontrare. Che lunedì c'è in prefettura tutti i soggetti che sono preposti alla sicurezza, che devono ancora valutare appunto tutta questa situazione. E vorremmo semplicemente essere anche noi coinvolti. Ecco. Allora, facciamo così, Galletti, anche con lei. Ci teniamo in contatto, perché poi appunto manca una settimana sostanzialmente l'inaugurazione di questa grande opera, e vedremo come va nelle prossime ore. Ci spostiamo un po' più a est nel nostro giro per l'Italia e andiamo a Vicenza. Ringraziamo per aver accettato il nostro invito il prefetto Eugenio Soldà. Buongiorno prefetto, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie. Allora, il tema è questo: l'accoglienza di profughi e migranti. Un tema che abbiamo sottolineato in altre occasioni, l'abbiamo fatto per esempio quando abbiamo ospitato il sindaco di Treviso, il quale ci ha detto: guardate che il problema soprattutto qua in Veneto è questo, ci sono molti sindaci che non accettano che ci siano profughi o migranti sul loro territorio, e quindi quelli che lo accettano rischiano di vedere una concentrazione sul territorio di quel singolo comune enorme. Lei ha riunito i sindaci della provincia di Vicenza, prefetto, e ha detto loro: signori, organizzatevi, perché qua tocca fare un'accoglienza diffusa, no? Esatto, io ho avuto, ormai questo è il terzo anno che affrontiamo questo argomento. Il primo anno sono stato in difficoltà, il secondo in molta difficoltà, quest'anno sono in emergenza. Siccome su 121 comuni della provincia di Vicenza, 69 sono comuni che non hanno nessun profugo, mi sono rivolto essenzialmente a loro, l'ho chiesto a tutti, ma essenzialmente la mia era una richiesta verso questi comuni, dove ho paventato l'ipotesi di avere da un minimo di 4, massimo 8 ospiti profughi per ogni comune. Avremmo avuto una disponibilità di 300-400 persone e potevamo sopravvivere. La riunione purtroppo, devo dire, ha avuto l'assenza di circa 50 e anche oltre comuni che non si sono presentati, tra cui quasi tutti quelli che non hanno profughi. Quindi non si sono nemmeno presentati, prefetto. Infatti ho, in un'intervista a un giornale locale, ho dichiarato che questo mi è sembrato un atteggiamento di scarsissima proprio non sensibilità, ma anche un cattivo verso una cattiva sensibilità anche nei confronti degli stessi abitanti, perché quando uno vota un sindaco pretende che sia tutelato e rappresentato dovunque, anche nelle contestazioni, certo, perché i sindaci presenti che ho avuto, e mica tutti erano dalla mia parte, ci sono stati pure sindaci che hanno manifestato le loro opinioni contrarie sulla gestione eccetera. Però è logico che davanti a questa, diciamo, resistenza, io sono un prefetto che ha una direttiva che va rispettata e non ha alternative. Certo. Quindi, è un funzionario dello Stato e dice giustamente: devo obbedire alle ordinanze, mi manda il Viminale esatto, e ovviamente alle leggi dello Stato. Prefetto, una domanda: mi sembra di aver capito che lei ha intenzione eventualmente di agire d'imperio, cioè se voi non lo accettate, se i sindaci non lo accettano, pazienza, ci organizzeremo con chi è d'accordo con l'accoglienza, che in questo caso possono essere strutture, anche strutture alberghiere, e li distribuisco io i profughi. Perfetto, perché la mia non era un ricatto, ho detto aiutatemi a decidere e farlo insieme, perché insieme possiamo condividere una decisione che va a fare a alterare il meno possibile l'equilibrio di una comunità. In assenza di questa collaborazione devo necessariamente agire io. Io ho messo in moto un meccanismo dove, tramite le cooperative che hanno partecipato al bando, di cercare disponibilità non solo da alberghiere ma anche strutture private, affinché possano reperire in quei comuni che non hanno niente, neanche un profugo, lo faccio a testa mia. Certo, prefetto, immagino che ci saranno proteste, immagino le prevede anche lei. Quello sono quasi 3 anni ormai. Costantemente, dice, quindi ormai ci ho fatto il callo. Più o meno sì. Va bene, la ringrazio, grazie al prefetto di Vicenza, Eugenio Soldà. La ringrazio, noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi parliamo di questa vicenda mitica che arriva da Roma, sciopero di un sindacato dell'ATAC durante le ore della prima partita dell'Italia all'Europeo. Pausa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli, secondo i dati dell'Istat, per la prima volta in Italia calano i residenti, sono 60.665.000, 130.000 in meno rispetto al 2014. Scontri con gli hooligans inglesi che invocano l'ISIS a Marsiglia e a Parigi, cumuli di rifiuti per lo sciopero dei netturbini. Si aprono questa sera gli europei di calcio in campo Francia e Romania. Oggi i funerali della ragazza uccisa e bruciata dall'ex fidanzato a Roma e a Trieste. L'ex marito confessa l'omicidio di una donna scomparsa da giorni. Sulla crisi i giovani imprenditori di Confindustria dicono la guerra è finita, appoggio al referendum per la riforma costituzionale. Dal Consiglio dei Ministri l'esame preliminare delle nuove regole sui voucher, tracciabilità dei buoni lavoro e regole più morbide per il settore agricolo. La borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo per parlare, per chiudere il nostro giro d'Italia, giro per l'Italia, spostandoci a Roma, nella capitale, dove accadono sempre vicende che su di noi esercitano un certo fascino. Fabio Milloc, che è il segretario nazionale dell'UGL Autoferrotranvieri, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti. Insomma, avete piazzato uno sciopero che dell'ATAC, quindi degli autoferrotranvieri di Roma, che cade esattamente, diciamo, da mezz'ora prima dell'inizio della partita dell'Italia, più o meno alle prime interviste, quindi dalle 20:30 a mezzanotte lunedì. Quindi se è stato bravo chi ha messo in programma la partita. No, e su queste cose non si scherza. Mi dispiace anche che il candidato Giacchetti abbia ironizzato su questo aspetto. Perché vede, quando si sciopera di venerdì, io ho ascoltato la sua trasmissione, l'ascolto quasi quotidianamente, ascolto Scalzanino la mattina, mi dispiace quando si va a strumentalizzare che metti il venerdì di sciopero, così fai venerdì, sabato e domenica. Mi dispiace laddove abbiamo scelto un orario dalle 20:30 fino al servizio, proprio perché in quelle ore le persone, la cittadinanza che lavora, sostanzialmente la parte più importante sta già a casa. In più c'è la partita, quindi tutti quanti scappano, perché noi siamo amanti del pallone. E quindi dire che il lavoratore dell'ATA che sciopera grazie a un'organizzazione per andare a vedere la partita, quando ci rimettono dei soldi in busta paga, mi sembra veramente poco onorevole anche da parte di Giacchetti, che peraltro lo conosco, perché lui non si ricorderà di me. Io mi ricordo di lui quando stavo in giunta Rutelli, senta, io ero segretario provinciale allora, mi dica. Senta, allora potevate farla il martedì, perché no? Ma il martedì, come l'ho detto, il flusso delle persone che scappano a casa perché c'è la partita si svuota, se le guarda anche le statistiche, maggiormente la città. Siccome siamo consci e consapevoli, no, che questo ha determinato, lo sciopero determina un fastidio, bisogna anche decidere se lo sciopero è qualcosa di legittimo o di illegittimo. Punto primo. Sì. Punto secondo, guardiamo le motivazioni dello sciopero. Le motivazioni dello sciopero sono, a mio avviso, serie. Allora, adesso ci arriviamo. Però prima mi permette di rimanere un attimo sul tema sul tema dell'orario, no? E del giorno scelto. Certo. Qualche ascoltatore ci scrive anche via WhatsApp. Allora, che senso ha fare lo sciopero a quell'ora? Perché il punto è questo: il punto è che uno sciopero, come dire, ha un senso doloroso per tutti noi quando crea disagio agli utenti e quando segnala un problema all'amministrazione. Cioè, tu fai uno sciopero per perché? Perché in quel momento la gente non compra i biglietti, quindi non fa entrare i soldi in cassa all'azienda, eccetera, eccetera. E il senso dello sciopero è questo, cioè quando fermi la produzione. E lei dice, la produzione non c'è e noi ci fermiamo. No, allora che vero. Senso ha? Non è vero, non è vero, perché la produzione c'è, perché la produzione creiamo noi. C'è meno utenza, quindi c'è meno... C'è anche chi ha dovrebbe essere contento, chi ha l'abbonamento che non viene penalizzato. Però vede, anche qui è molto semplice poi di cadere su falsi moralismi anche, no? Perché? Perché se il lavoratore dovesse pensare davvero che lo sciopero diventa un'opportunità per andare a vedere la partita, io credo che dovremmo chiudere baracche e burattini. Perché si fa lo sciopero a quell'ora? Perché io, pur non dando fastidio all'utenza, che grazie alla sì. precedente gestione sì. in ATA che ci hanno messo i colleghi contro l'utenza, invece siamo parte della stessa barca. Scusi, Milo, lei lo sa che sì. questa cosa comunque contribuirà a non rendervi particolarmente simpatici di fronte all'utenza, perché a quelli ai quali non gliene frega niente del calcio, che si ritrovano senza autobus quella sera, sa che si irritano il quadruplo degli appassionati di calcio. Sì, allora io sono simpatizzante del calcio, quindi potrebbe toccare anche me, però è molto semplice anche qui. Allora, la commissione di garanzia dovrebbe, è meglio, il Parlamento dovrebbe individuare delle regole, delle leggi, laddove c'è una partita di calcio, dove se ci sono più o meno tifosi della Roma e della Lazio, perché se allora giocava la Roma e la Lazio, magari ci facciamo un favore o un discrimine l'altro. Cioè, non entriamo, non è neanche da lei, della sua trasmissione, sì. questo tenore, no? No, voglio dire, no? Ma che vuol dire? Mi scusi, ma vuol dire che è una domanda legittima, è una domanda legittima che ci poniamo tutti, no? Su questo sicuramente, me l'ho risposto, non è che uno può andare a vedere, io so che statistica alla mano e lei ce l'ha a modo di vederle, e quando c'è una partita di calcio in Italia le strade si svuotano, le città sono libere. Allora, a noi interessava di dare un segnale all'azienda che non ci convoca, non ci sente, non fa orecchie da mercante. Chi le parla? Nel mese di agosto dell'anno, io sono stato con il senatore Esposito, che quella volta era assessore ai trasporti, per scongiurare uno sciopero. Siamo stati lì, e gli avevo dato atto anche a lui, che siamo stati lì giorni interi fino a nottate per vedere di tirare fuori un qualche cosa di buono, e ci siamo riusciti. Noi è da allora che tra precitazioni, tra situazioni di saggia responsabilità anche dell'organizzazione, ma quando ci sono temi come la sicurezza, e che è veramente in uno stato precario, diventa quasi impossibile. Allora, abbiamo veramente 10 secondi, Milo, anzi non avremo nemmeno quelli, però gliel'ho promesso. Mi dice in tre parole per cosa scioperate? Sì, l'utenza quando sale su un mezzo non sa dove sale. Noi sì, perché conosciamo la vetustà, conosciamo tutte le macchine. E quindi? Allora l'utenza, 5 secondi, l'utenza se ne accorge quando un autobus prende fuoco, quando la metropolitana si ferma. Siamo in uno stato veramente precario. E quindi volete il rinnovo dei mezzi, noi in sostanza? Vogliamo. Rinnovo no, e manutenzione dei mezzi? No, noi vogliamo che si dedichi la tutta su quelle cose che gli andiamo a segnalare, per rendere minima, quantomeno minima, la certezza che un utente prenda il mezzo e che ritorni a casa sano e salvo. Grazie Millock, traffico.